questa nostra location nuova tra virgolette, ma ci dovremmo abituare un pochino, perché la sede della biblioteca provinciale è diventata troppo piccola, ci sono troppi libri, abbiamo ingrandito troppo la collezione, e quindi in una cornice così un po' più comoda trasferiremo spesso le nostre iniziative. Iniziamo le attività di quest'anno con il professor Marco Pugliese, che da qualche anno ci aiuta soprattutto per quanto riguarda le iniziative di carattere storico e letterario. È un insegnante delle scuole qui a Bolzano, delle scuole medie, e è soprattutto anche un insegnante che si occupa a sua volta di formazione dei colleghi, per cui è responsabile di alcuni corsi di aggiornamento. Ha tante idee, tante novità sempre da proporci, e ci può aiutare per così far venire voglia di frequentare una biblioteca e di leggere libri che la biblioteca raccoglie e mette a disposizione del pubblico. Questa è un po' la nostra missione e questi sono i motivi per cui ci avvaliamo dell'aiuto di tante persone, e come dicevo prima anche del professor Pugliese, per così fare una panoramica di argomenti sempre nuovi, di rivisitazioni di argomenti e di libri. Ecco, il tema quest'anno sarà nuovamente molto spostato sulla storia e sulla letteratura, e in particolar modo collegato alla prima guerra mondiale. Anche, come vedete, ci sono dei manifesti che la richiamano. Qui al Centro Trevi c'è anche in corso una edizione del Cerchio nell'Arte dedicata appunto alla Grande Guerra, e quindi noi di pari passo andremo avanti in concomitanza con queste iniziative, inserendoci anche all'interno di queste iniziative con delle proposte, degli incontri con l'autore o dei dibattiti, e poi portiamo sempre limitatamente alle nostre possibilità qualche libro, ecco, con l'invito però di venirci a trovare oppure di visitare semplicemente il sito. Per ogni riferimento ci sono anche delle locandine lì appoggiate, per cui chi volesse curiosare il nostro sito e vedere cosa facciamo in biblioteca, cosa offriamo anche da casa, perché chiunque si può collegare con noi, ha lì tutti i riferimenti. Ecco, io ringrazio Marco Pugliese, che questa sera appunto ha scelto per noi un titolo interessante, 1914, la guerra letteraria, Gadda, un'intervista. Buonasera. Chiedo subito la parola. Va bene. Grazie per l'introduzione. Grazie a voi. Grazie a chi è qui. Sì, io ho scelto questo autore un po' particolare, nel senso che Gadda non è sicuramente un personaggio conosciuto. Cioè è conosciuto nel mondo letterario e intellettuale italiano, specialmente del secondo dopoguerra più che del primo dopoguerra, e a scuola purtroppo di Gadda si passa vicino, ma non lo si fa forse come non lo si riesce a storicizzare, come se si storicizzano altri autori che sono, non so, penso a Manzoni, penso a lo stesso D'Annunzio, oppure un Pascoli. Quindi sono letterati che chiaramente una persona che va a scuola di media cultura eccetera conosce. Gadda è un po', dipende dal professore. Se trovi il professore che magari è un po' appassionato, può darsi che ti proponga qualcosa, altrimenti rimane un po' nel dimenticatoio. Ed è un peccato, perché a parte la ricerca stilistica e la ricerca intellettuale di Gadda, che è fenomenale, nel senso che forse al pari di D'Annunzio, che a lui non piaceva molto, però nasceva, la sua scrittura nasce anche nel contesto del discorso d'annunziano, e diciamo che lui fa un po' da filo conduttore inconsapevole, perché in realtà lui in qualche intervista lo ammette, però forse a posteriori, ma inconsapevole, è un filo che parte proprio dal 1914, dove ancora l'Italia è in guerra, e finisce praticamente con la sua morte negli anni 70. Quindi in pratica sono gli anni sono gli anni cruciali per il nostro paese, perché prima guerra mondiale, il fascismo, seconda guerra mondiale, secondo dopoguerra, il primo dopoguerra ovviamente, secondo dopoguerra, boom economico, calo di nuovo, perché gli anni 70, specialmente nell'inizio, non è che fossero proprio anni di, c'erano state le rivolte studentesche, il 68, eccetera, eccetera, quindi c'era un po' di malumore in Italia. Quindi lui proprio fa tutta la parabola italiana, quindi parte dal sogno della grande Italia di inizio Novecento e conclude la sua vita dove l'Italia non ha compiuto quei passaggi che si attendevano i nostri intellettuali come Pascoli, ad esempio, nel 1912, che applaudiva alle imprese coloniali, eccetera, eccetera, ma non è nemmeno un paese però ridotto poi così male, perché rientrerà appunto nelle 8 economie mondiali, quindi riuscirà da un punto di vista economico e sociale, agli italiani c'è una battuta famosa di un presidente del Consiglio, fa avranno tutti la lavatrice, che sembra una battuta, però in realtà negli anni 60 il boom economico ci fa scoprire una sorta di America in Italia, nel senso che quello che noi vediamo nei telefilm tipo Happy Days in realtà in Italia arriva molto dopo, però arriva, in alcuni stati del mondo non è ancora arrivato, quindi comunque il nostro sistema, insomma, diciamo, è riuscito a rigenerarsi, anzi la nostra industria è stata capacissima a reinventarsi nel secondo dopoguerra, perché più o meno abbiamo puntato tutto sull'industria bellica, quindi poi nel secondo dopoguerra invece siamo riusciti a creare qualcosa di civile, eccetera eccetera. Di oggi non parlo, questo è un discorso, se no si dilata troppo, però appunto Garda, secondo me, appunto riprende proprio quello che l'italiano, in questo caso dire medio è riduttivo, perché ovviamente lui non è un italiano medio nel senso del termine massificato di medio, nel senso che proprio lui è una persona che ha un quid in più, è una persona che ha un qualcosa in più. Intanto ha un rapporto molto particolare con la propria famiglia, nel senso che vive male le vicissitudini economiche della propria famiglia, perché appunto il padre sbaglia degli investimenti, eccetera, eccetera. E soprattutto ha un rapporto particolare con sua madre, che di fatto non lo apprezzerà fino in fondo, nel senso che proprio è la classica madre. Don Milani parlava di maestra della matita rossa, ecco, la madre mi ha ricordato, leggendo certe sue frasi, una persona di quel tipo, cioè una persona tutta un pezzo molto forte, che lo sgrida quando è bambino. Lui addirittura in un'intervista che ho trovato un anno prima di morire si ricorda ancora, praticamente da bambino gli avevano comprato un gelato, questo poveretto, uno dei pochi gelati che la madre gli fece mangiare, e preso il gelato, in pratica passò un piccione e beccò il gelato proprio a mo' di bersaglio, e purtroppo la madre disse: vabbè, oh, capita, butta via il gelato. E lui ovviamente buttò via il gelato e si aspettava un altro gelato, e dice, e la madre invece no, dice: no, guarda, il gelato ormai è andato, ti sei giocato il bonus. Quindi lui in pratica fu un personaggio discolo, si autodefiniva discolo, nel senso che comunque a scuola eccelleva, ma eccelleva come un Einstein, cioè Einstein eccelleva, però non è che a scuola avesse dei risultati brillanti. Invece Garda era un po' più furbo, nel senso che le polemiche dei professori non le faceva, quindi faceva delle polemiche di un altro tipo, però a scuola andava bene. Infatti, pur essendo un letterato, in realtà era un ingegnere, quindi anche quello è un discorso particolare, perché non siamo davanti a un Pascoli o a un Manzoni o a un Carducci, che in pratica hanno, insomma, loro sono professori addirittura, diciamo proprio nel vero senso della parola, cioè non come me, proprio il vero professore, nel senso che proprio professore della lingua italiana, cioè hanno determinati canoni, sono degli intellettuali al 100%, perché la loro vita l'hanno dedicata completamente alla cultura, eccetera eccetera. Garda vorrebbe diventare un personaggio simile, il problema è che sua madre gli dice: vabbè, ma è la solita frase, cosa vai a fare al liceo classico, mica si campa come col greco, vai a fare un'altra cosa. E gli dice: cosa vai a fare, già per fare il liceo Parini, insomma, giusto perché doveva fare un liceo, però all'università vai a fare il Politecnico, non si chiamava così, comunque il futuro Politecnico, e divenne ingegnere. Quindi questo aspetto, che secondo me i critici hanno sottolineato più volte, ma l'hanno sottolineato in una maniera abbastanza approssimativa, fu di sostanziale. Il rapporto con la madre lo ritroviamo in qualsiasi suo scritto, in qualsiasi sua polemica, in qualsiasi suo perfino in guerra. E quando la madre morirà, il distacco sarà comunque traumatico, perché alla fine questa figura di contrappeso gli serviva, perché aveva sempre da dire a sua madre, hai visto, cioè, dimostrazione continua alla madre che lui sapesse comunque fare quello che lei voleva, cioè l'ingegnere. Purtroppo ebbe la sfortuna che il fratello, quello che la madre considerava migliore, più intelligente, più bravo, più simpatico, eccetera, eccetera, morisse in guerra, in un'azione di volo, era nella regia aeronautica, morì. Quindi lui da lì non riuscì comunque a diventare il figlio prediletto, perché comunque sapete tutti, no? Quando una persona muore in un contesto del genere diventa un mito, un eroe, cioè Francesco Baracca è diventato un mito perché è morto in un certo modo, fosse rimasto vivo, lo si dice anche nello sport, no? Te ne vai da vincente, purtroppo in queste imprese se te ne vai da vincente, tra virgolette, ci lasci le penne in battaglia, però rimani proprio nella storia, nella leggenda, una medaglia al valore, eccetera, eccetera. Quindi il fratello addirittura acquistò punti pur essendo morto. Quindi lui visse nel primo dopoguerra, dove poi si laureò, perché è un ragazzo che partì volontario per la prima guerra mondiale, e comunque nella sua situazione avrebbe potuto anche scampare dalla prima guerra mondiale, c'erano varie possibilità. Partì volontario perché appunto credeva nella missione della guerra. Da qui questo aspetto è stato studiato poco, è stato spiegato poco. In realtà è perché lui sotto sotto aveva un senso del dovere molto spiccato, e in più in quel periodo lì c'erano delle avanguardie tipo il futurismo che andavano di moda, diremmo adesso. Quindi lui non abbracciò mai quelle avanguardie lì, perché non ci sono scritti che richiamano a quel tipo di però comunque sicuramente nel brodo dell'intellettualismo italiano di quegli anni, di interventisti, neutralisti, post-interventisti, Mussolini che prima non è interventista, poi interviene, D'Annunzio che dice una cosa, poi ne fa, ecco. Per esempio lui è, secondo me, è molto da accostare, cioè la differenza tra lui e un D'Annunzio è sostanziale, nel senso che D'Annunzio è teatrale, è scenico perché comunque va a fare i comizi, è furbo perché il comizio sull'entrata in guerra lo va a fare a Quarto, da dove cioè proprio si rifà il Risorgimento, cose che Gadda non avrebbe mai fatto. Gadda cosa ha fatto? Ha preso le sue armi e bagagli e è andato al fronte. Quindi una persona col senso del dovere. D'Annunzio invece al fronte ci è andato con l'aereo, però poi era anche in marina, andava a fare l'impresa di Bucari, andava a fare questo e quell'altro, gironzolava per il fronte, creava canzonette, insomma ha fatto tutto un altro tipo di guerra, importante perché alla fine ha anche sollevato il morale dei soldati in alcuni tratti. Dall'altra però un po' più scenica, un po' insomma teatrale, una guerra che infatti così teatrale piacque molto a Mussolini, che nella seconda guerra mondiale imitò molto lo stile D'Annunzio, cioè era convinto, insomma l'Albania l'abbiamo presa perché eravamo amici di Herzog, la Grecia ma sì dai, forse anche se a ottobre c'è il fango fa lo stesso, la Libia e l'Etiopia vabbè insomma ce l'abbiamo fatta, e ogni guerra aveva il suo slogan. Addirittura Ciano, quando andò a bombardare l'Etiopia, aveva la sua squadriglia, la disperata, in pratica lui si alzava in volo, andava dove voleva, non aveva un obiettivo tattico, bombardava la meno peggio e tornava indietro, e poi scriveva sul suo diario delle grandissime imprese. Infatti quando la guerra invece si fece seria, quindi che non c'era più la cavalleria etiope da inseguire, ma ci furono le squadriglie inglesi o francesi all'inizio della guerra, lui 4 ore dopo che bombardarono Genova si alza in volo a disperata, 4 ore di ritardo, e dice: non ho più visto il nemico, peccato perché avevamo le bombe calde. Però insomma di combattimenti ne abbiamo visti pochi. E quindi questa guerra è un po' risorgimentale, perché alla fine anche le nostre battaglie del Risorgimento sono state prese, noi abbiamo preso due bruttissime sconfitte durante il Risorgimento, a Custoda ad esempio l'esercito italiano ha preso una batosta tremenda dagli austriaci, però comunque la nostra storiografia è riuscita in un qualche modo a dare anche su quella sconfitta, dare uno slancio poi per avere gli argomenti per arrivare al 14 e dire, beh, andiamo dall'altra parte questa volta, perché questa è la quarta guerra, cioè sono le tre guerre di indipendenza, questa è la quarta. Ecco, in tutto questo, in questo appunto, io l'ho chiamato brodo perché effettivamente a quel tempo era un po' complesso, era una società secondo me non tanto dissimile da quella di oggi, quella di inizio Novecento, perché aveva un discorso dietro di modernità, cioè eravamo in piena Belle Époque, quindi funivie, anche qua a Bolzano era un periodo di, c'era Pelattone che ha fatto costruire un sacco di cose. Eravamo in un periodo insomma di forte rivoluzione tecnologica più che industriale, cioè c'era questo slancio verso il treno, eccetera eccetera, quindi era un periodo in cui tutti più o meno riuscivano a vedere un futuro migliore. Le classi operaie erano stavano meglio dell'Ottocento, adesso sarebbe ridicolo dire che stessero proprio bene, perché comunque lavoravano dalla mattina alla sera in condizioni mostruose, però rispetto al 1800 stavano meglio. Quindi anche la stessa massa non si lamentava più come inizio Novecento. Ricordiamo che il nostro re firmò una carta dove c'era scritto che l'esercito poteva sparare a chi faceva le manifestazioni a Milano, e sparò uccidendo gli operai. Quindi eravamo nel Novecento, non per niente il re Umberto fu ucciso dagli anarchici. Proprio nel 1900 diventò re Vittorio Emanuele III. Quindi siamo in queste situazioni, però nel 14 tutto sommato anche in Italia la guerra fa paura, ma non fa paura. C'è questa massa silenziosa, tra cui c'è Gadda, che non è che esprima giudizi in quel periodo, e questa massa silenziosa che era contraria alla guerra ma anche favorevole, cioè aveva quel classico atteggiamento che purtroppo poi ci ha etichettato a noi italiani del aspetto e vediamo. E quindi noi siamo stati gli unici al mondo a vincere una guerra e perderne un'altra, non c'è stato nessun altro che si è messo proprio dall'altra parte. Siamo stati anche gli unici in entrambe le guerre, fino a 3 settimane prima della nostra entrata, a non capire bene da che parte andare, perché nel 14 tra Salandra, Sonnino e questo signore qui che è Giolitti, e questo chiaramente non può non aver influenzato il suo modo di fare, non può non aver influenzato nemmeno Gadda, perché chiaramente neutralista a parole, nei fatti neutralista col re, però disse: io non entrerò in guerra, però se magari riusciamo a raschiare qualcosa dall'Austria, io starei dalla parte dell'Austria. Lui era un triplicista, quindi era favorevole alla triplice alleanza, quindi Austria, Italia e Germania. E poi c'erano anche delle convinzioni, le stesse che abbiamo noi quando adesso fanno guerre, vanno in giro. E Guglielmo II, l'imperatore di Germania, disse: i nostri soldati, quando scoppiò la guerra, vedranno da casa loro le foglie cadere dagli alberi. Quindi vuol dire che la guerra si sarebbe dovuta risolvere entro la fine dell'autunno del 14, si finirà nel 18 inoltrato. Quindi chiaramente i nostri intellettuali lì erano divisi in due schiere, c'era chi voleva intervenire per dare lustro a, alcuni ci credevano sul serio alla nazione, c'era invece chi voleva semplicemente intervenire per meri motivi di conquista economici, che poi alla fine è un binario parallelo, cioè l'economia va pari passo con la conquista. Però noi anche lì siamo stati diversi dagli altri, perché infatti intellettuali come lo stesso Gadda, che ci sono dei suoi scritti, perché ricordiamoci che lui era ingegnere oltre che letterato, ci farà capire quanta miopia dopo la prima guerra mondiale il nostro governo avrà, cioè andranno a fare delle polemiche incredibili per avere Fiume e pezzi della Dalmazia, e completamente si cioè tutto il territorio medio orientale ricco di petrolio sarà lasciato completamente a Francia e Gran Bretagna, perché nella mente dei nostri governanti c'era l'aumento della terra, non la risorsa. Invece la Gran Bretagna, gli Stati Uniti già e la Francia avevano già capito che il futuro era risorsa energetica primaria, quindi il petrolio in quel caso lì. Oggi avremmo detto l'uranio, avremmo detto cioè oggi sinceramente noi avevamo la Libia che era piena di petrolio, ma non lo sapevamo, non avevamo condotto studi minerari particolari. Infatti noi prima della seconda guerra mondiale eravamo a zero praticamente come produzione, e anche di acciaio eravamo messi maluccio in confronto già alla Francia, che simile a noi era quasi il doppio della produzione di acciaio. Quindi noi abbiamo, perché? Perché il nostro governo aveva puntato su politiche sociali, perché fascismo piazzano ha puntato su politiche sociali non belliche, il nazismo invece ha puntato tutto sulla teocrazia, perché comunque era una teocrazia nel senso che divinizzava Hitler, e sul discorso bellico. Invece il fascismo, e lì secondo me c'è la grande differenza, puntò sulle riforme sociali per tenere il consenso. Cioè Mussolini, conoscendo l'italiano medio, gli do la scuola, gli do la casa, gli do il dopolavoro, gli do questo, gli do quell'altro, più o meno non fa rivoluzioni. Lui l'aveva fatta quasi per finta, quindi eravamo tutti contenti. Addirittura si è tenuto il re, che oggettivamente il re non se lo sarebbe tenuto nessuno. Si è tenuto gli accordi col Papa, quindi insomma tutto questo discorso qui. Chiaramente Garda non è che durante il fascismo non lavora o si va sottoterra. Garda durante il fascismo lavora e scrive. E non condanna il fascismo all'inizio, anzi si iscrive al Partito Nazionale Fascista dopo la Prima Guerra Mondiale. Poi sarà uno dei famosi delusi, cioè quella serie di intellettuali che si renderanno conto che il fascismo aveva praticamente, io su quello sono molto vicino a Montanelli, il fascismo era Mussolini, tutto qua. E allora questi intellettuali quando si resero conto che il fascismo era, non era più un movimento politico barra sociale, ma era diventato il duce da portare al potere e mantenere il potere, si discostarono. E diciamo che Garda non è che lo fece un po', insomma, lo fece, ma lo fece in parte, perché sapete benissimo che scrisse su delle riviste, e anche polemicamente, che poi vennero chiuse, però a casa di Garda non si presentarono mai le squadracce fasciste col manganello e neanche con quello di Riccino. Quindi la sua opposizione fu una posizione intellettuale. Lui i suoi peggiori scritti contro Mussolini li scrisse dopo il 46, quindi su questo io ho, secondo me, ecco qui bisogna capire fin dove arriva l'onestà anche intellettuale del personaggio, perché chiaramente nelle interviste che ho visto negli anni 60 e 70, dove ormai era in età avanzata, lui praticamente quasi rinnega, riesce quasi a rinnegare tutto il passato fino al 42-43, dice: sì, ma ero quasi costretto. Non era stato quasi costretto, aveva comunque lavorato come ingegnere, e sapete benissimo che durante il periodo fascista o avevi la tessera o non lavoravi, oppure ti chiamavi Marconi e potevi fare quello che volevi, ti chiamavi D'Annunzio, non avevi la tessera, facevi quello che volevi, però se eri una persona tra virgolette normale, lui era un intellettuale. Mussolini comunque furbo, chi era contro di lui ma scriveva e basta non l'ha mai perseguitato, perché lo stesso Bombacci poi è finito a morirci insieme, il fondatore del Partito Comunista Italiano non fu mai preso e mandato a Ponza. Perché? Perché faceva un'opposizione spirituale politica, non faceva un'opposizione vera e propria a quei fucili. Allora Mussolini lasciava perdere. Nenni stesso venne mandato al confino, però ci fu sempre l'occhio di riguardo. E quindi diciamo fu una situazione che è interessante, perché appunto è in questi anni che Garda, parlo del secondo dopoguerra, che Garda addirittura si scaglia contro film di questo tipo, La Grande Guerra. Cioè lui è un po' ambivalente, da una parte condanna la retorica fascista, però dall'altra dirà Monicelli: tu mi hai toccato Caporetto. Perché? Perché a Caporetto, sapete, no, c'è stata la disfatta dell'esercito italiano. Garda era su quel fronte e non conosceva al tempo tutte le questioni, Badoglio ha sbagliato i cannoni, però lo stesso anche lì la vide come una sconfitta dell'Italia a livello proprio logistico, sociale. Cioè fu, si dice anche in italiano, è una Caporetto, cioè proprio sei a zero. Noi quel giorno eravamo a zero, proprio ci siamo fatti mettere proprio completamente al tappeto. E da quella sconfitta, che lui vide anche come morale, in pratica ripartì un nuovo sentimento che poi ci portò al Piave, eccetera eccetera. Però Garda era in prigionia, quindi lui non fece il Piave, non ci fu nessuna vittoria Veneto per lui tornò in Italia nel 20, dopo essere stato prigioniero in Germania. Quindi anche questo discorso qui aveva ancora nel cuore Caporetto, cioè una sconfitta che lui vide come una sconfitta generazionale, cioè di ragazzi della sua età. E infatti criticò moltissimo questo film, perché diceva: non si può ridere di tragedie. E la Grande Guerra, che adesso casualmente qui c'è pure la locandina, e la Grande Guerra fu un film del 59 di Monicelli, il primo film girato in Italia sulla Prima Guerra Mondiale. Cioè, fino a quel tempo nessuno si era mai azzardato, e Monicelli ci pensò per un po' di tempo prima di girarlo. Nessuno si azzardò mai a parlare della Prima Guerra Mondiale, era tabù, ne potevano parlare solo i reduci, intellettuali o no, e giudizi li potevano solo dare le persone che avevano combattuta. E questa cosa è presente perfino, infatti adesso vi faccio sentire degli spezzoni perché non ho preso delle scene. E perché a Gadda dà fastidio tantissimo questo film? Perché Monicelli invece, da buon neorealista, chi fece recitare questo film? Sordi e Gassman, ovvero l'italiano medio sud centro, l'italiano medio nord, che poi in realtà è l'italiano medio. Cioè, qui ci sono due rappresentazioni di italiani che sono convinti uno di essere meglio dell'altro, quello del sud centro perché è più furbo, quello del nord perché è più impettito. In realtà tutti e due non vogliono morire, stesso discorso che nessuno vuole morire, tutti vogliono tornare a casa, quindi nord e sud qua cade, perché sono un milanese e un romano che in pratica si allenano per non morire. Tutto il film sarà basato sulla loro vigliaccheria. Quando andranno a prendere, infatti quella scena che a Gadda lui dirà a me fa schifo, Monicelli comunque risponde a tono, dice: Gadda è solo un vecchio trombone, a me non interessa, proprio un vecchio trombone, perché Gadda aveva questa smania di dare anche dei soprannomi abbastanza forti anche a autori della nostra. A lui piaceva Manzoni, però per esempio Pascoli lo considerava un infantile, perdi tempo, perché appunto sapete, no, che anche Pascoli aveva vissuto del dolore. Secondo me invece io ci ho visto quello che alcuni critici forse non hanno detto. Io lo posso dire perché non ho scritto libri su Gadda e quindi non sono così elevato da poter scrivere un giudizio stilistico sul personaggio. Secondo me lì è semplice invidia sentimentale, nel senso che comunque Pascoli ha avuto un focolare domestico di un certo tipo e ha scritto quello che ha scritto in un certo modo. Leopardi, similare, cioè non conosce, cioè Leopardi era incavolato col mondo, era arrabbiato col mondo per la sua condizione fisica, non con sua madre, non con suo padre. Sì, era un po' invidioso del fratello, perché c'è questa leggenda che il fratello facesse i festini e lui stesse a casa a studiare. In realtà invece il fratello era una persona normale e lui aveva dei problemi fisici, tutto qui. Però non ce l'aveva con la mamma, non ce l'aveva col papà. Invece Manzoni nemmeno. Invece Gadda aveva questo discorso della mamma come una spada di Damocle sopra di lui, quindi in realtà gli dava fastidio anche Alfieri, lo chiamava scimpanzé, basetta, perché spesso Alfieri ha le basette. Gli dava fastidio anche Foscolo, cioè gli dava ad esempio, gli dava fastidio anche D'Annunzio, ovviamente lo etichettò Latrin Lover. Insieme a Flaiani, che era un altro che in quel tempo a Roma, insomma, circolava nei caffè eccetera eccetera, si occupava di sceneggiature, un intellettuale molto fine, venne poi il soprannome il dentista stentato, perché D'Annunzio aveva paura del dentista, cioè del dentista, vabbè che a quei tempi era un po' complesso, però fu una persona che, cioè lui che era un grande amatore eccetera eccetera, finì veramente male la sua carriera, perché ebbe una quantità incredibile di amanti, però il Vittoriale in pratica negli ultimi anni di vita quasi lui non parlava, perché appunto si vedeva che era completamente senza denti. Quindi anche su, cioè insomma, ne uscì con una roba proprio violentissima, cioè un intellettuale di solito non si ferma a... queste sono proprio punture di invidia, non sono altro. E infatti c'è un bellissimo libro che consiglio a tutti, che di Arbasino, che è un ex parlamentare, però è un intellettuale fondamentalmente, e L'ingegnere in blu, che lo ha, questo signore ha conosciuto Gadda, ci ha parlato e lo ha descritto molto bene, Ingegnere in blu, perché Gadda era sempre vestito di blu, cioè proprio classico ingegnere, scarpe nere tirate a lucido, persona che ha dei certi tipi di valori, un po' bacchettona apparentemente, nella realtà no, perché comunque era molto aperto su tematiche sociali di vario tipo, ovviamente era amico di Pasolini, che però anche Pasolini venne criticato a lui, diceva, quando mangiavamo al caffetto all'Italia a Roma, finito di mangiare, Pasolini scappava prima del dolce, sennò i ragazzini che si gestivano non lo aspettavano, perché sapete che Pasolini, insomma, aveva criticato quindi indirettamente i gusti sessuali di Pasolini, chiaramente conosceva. Eppure invece Pasolini ebbe sempre buone parole per Gadda, comunque aveva un certo tipo. I suoi due principali testi, quindi i libri, sono stati scritti, quindi La cognizione del dolore, che secondo me è forse è quello più significativo, ed è un libro abbastanza pesante, e effettivamente capisco perché magari a scuola non si possa fare, cioè non si possa, sia complesso fare, perché comunque ha un impianto molto particolare. Leggerlo non è facile, e secondo me per leggerlo bisogna un attimo conoscere proprio tutta la storia di Gadda. Ecco, diciamo che non c'è un limite a Gadda, nel senso che lo può leggere chiunque, anche se a livello stilistico è forse l'autore più complesso che mi sia capitato di leggere, perché la sua ricerca di vocaboli, lui faceva addirittura delle gare con i suoi colleghi intellettuali per ritrovare vocaboli scomparsi dalla lingua italiana, quindi per esempio la parola babbeo, che era quasi sparita dal vocabolario italiano per indicare persona non molto intelligente eccetera, o sciocca, la ritirò con lui, adesso in pochi lo sanno, però la ritirò con lui, e così tantissime altre parole, espressioni, modi di dire. E forse non avrà amato l'espressione appunto è un accaporetto, perché a lui proprio questa parola dava proprio i nervi, e quindi fece e questa ricerca dello stile della parola l'ha presa da D'Annunzio, perché è l'inventore di parole della lingua italiana. Tramezzino l'ha inventato D'Annunzio, per dire. Era a Parigi, ha visto Stipanini, fa in italiano, come si dice, lo invento io, e beni culturali l'ha inventato D'Annunzio. E quindi anche Gadda, però non ne ha inventati di così famosi. E anche Gadda fece una ricerca tra dialetto milanese, pure era di Milano, dialetto milanese, poi mentalità italiana media, e qui io mi rifaccio a Giolitti, perché Giolitti lo ha influenzato per forza, perché fu il primo politico italiano a provare a far contare qualcosa alle masse, fu il primo, anche se apparentemente lui sembrava uno, insomma, lui diceva il potere non va cercato, ti cerca lui, quindi in quel periodo là era comodo essere vicini alle masse, perché in Italia c'erano i socialisti che erano fortissimi, quindi chiaramente lui se li è fatti amici tra virgolette, cioè se non amici neanche nemici, ed è riuscito a mantenere per un periodo lunghissimo il governo, il suo governo, quindi si parla addirittura di regime giolittiano, perché appunto tramava con il re Vittorio Emanuele è un altro furbacchione, nel senso che lui fece sempre finta di essere il re istituzionale, quello che sta zitto, aspetta il primo ministro, aspetta, in realtà invece parlava e parlottava con senatori, deputati eccetera eccetera per tramare, e con Giolitti tramò fino allo scoppio della prima guerra mondiale. E questo, ecco, diciamo che Gadda è un misto del suo tempo, quindi ha dentro un qualcosa di futurista, perché di qualcosa di futurista ce l'ha, però che si coglie gran poco, perché lui chiaramente non avrebbe mai potuto abbracciare un movimento del genere, era troppo, tra virgolette, timido intellettualmente per poter fare quel tipo di ragionamento. Cioè, io me lo immagino in trincea che quando scoppia un qualcosa lui si ripara, e me lo immagino più pauroso di Ungaretti, che invece la prima guerra mondiale Ungaretti la vede come proprio una sofferenza, un dovere, ma una sofferenza, dice siamo come foglie d'autunno noi soldati, cioè le foglie d'autunno, no, si staccano un po' di vento, cioè una cosa proprio pazzesca se si pensa oggi. E poi fa tutto questo discorso anche su questi ragazzi del 99, Ungaretti rimane colpito che dobbiamo richiamare le armi, questi ragazzini del 99, siamo nel 18, quindi questa gente di 18-19 anni buttata in una trincea a far la carne da macello praticamente. Ci lasciamo 650.000 giovani noi italiani nella prima guerra mondiale, quindi non è un discorso. Ecco, Gadda invece nel suo diario di prigionia che ho letto, ci sono delle sofferenze tutte interiori, cioè sembra che la guerra l'abbia fatta solo lui, cioè che gli altri 600.000 morti sì ci siano stati, lui è, diciamo, non è riuscito a esteriorizzare quello che cioè non è riuscito a portare a tutti il messaggio della guerra, nel senso che l'ha tenuto per sé, e secondo me questo discorso qui è perché appunto dietro c'era questa figura della madre. In guerra lui ci va perché, a parte il senso del dovere, è convinto che sulla madre questo avrà un forte impatto. Cioè, pensate che motivazione. Poi le motivazioni intellettuali, le motivazioni sull'Italia, sulla nazione, la patria, ci sono, perché a quell'epoca patria, nazione non erano parole vuote, erano parole effettivamente che potevano spingere delle persone anche a andare alla morte senza tanti problemi. E io credo anche alla buona fede anche di D'Annunzio su tante imprese, perché comunque il volo su Vienna ha rischiato la vita e la Betta di Bucari ha rischiato la vita, poteva essere catturato, c'era una taglia enorme degli austriaci sulla testa di D'Annunzio, addirittura i bombardieri austriaci andavano a cercare la sua casa a Venezia, la famosa casetta rossa. Quindi voglio dire, non stiamo parlando di una persona non coraggiosa, di una persona che se ne stava a casa. Lo stesso Mussolini in guerra la fece e venne ferito. Cioè, sono persone comunque di un'altra epoca. Forse adesso ci sono tanti chiacchieroni, poi quando c'è da fare qualcosa rimangono fermi. A quel tempo lì invece c'era una certa coerenza intellettuale, cioè anche perché al tempo essere il dirigente di un giornale socialista come Mussolini e dire noi siamo prima contro, poi a favore dell'intervento, la prima domanda che gli facevano a un comizio era: tu quando è che ci vai con l'elmetto? Non è che gli dicevano vabbè, stai qui a pontificare e ci andiamo noi. No, è dovuto andare anche lui, perché sennò avrebbe perso di credibilità totale. E stessa cosa quando volle fermare i treni che andavano in Libia, perché Mussolini con Nenni si legò ai binari che portavano i nostri soldati al porto di Brindisi per partire per la Libia, si legò ai binari rischiando di morire insieme a Nenni. Quello che adesso possono fare tanti giovani che noi chiamiamo global quando fanno certe cose, è la stessa cosa a quel tempo, però si andava fino in fondo, nel senso che fatta la magagna non dicevi ma me l'ha detto lui, no, dicevi io sono socialista bla bla bla, non voglio che, cioè al giudice lui ha detto quello, si è fatto 2 anni di galera. Quindi siamo in un contesto di questo tipo. Chiaramente una persona come Gadda, che arriva da una famiglia medio borghese, Mussolini invece arrivava da una famiglia non borghese, suo padre era fabbro, si chiamava Benito perché Benito Juarez era un socialista del Sud America, eccetera eccetera. D'Annunzio ha il cognome di, cioè non sarebbe il suo cognome, anche lui c'è una certa rivalsa quando va nei caffè romani a parlare con le donne e fa incetta di aristocratiche, è una rivincita per lui, perché lui non è un nobile assolutamente. Tutta questa smania però non ce l'ha Gadda, perché Gadda non è povero, cioè sa cosa vuol dire essere poveri perché la sua famiglia cade in disgrazia, però nasce borghese, quindi sapete i borghesi sono distanziati, a quel tempo specialmente erano un po' distanziati da tutto, non erano con la massa ma non erano con i nobili, non erano con questi, cioè stavano un po' nel loro mondo. E infatti lui esplose dopo la seconda guerra mondiale, cioè quindi nel secondo dopoguerra. E a tal proposito, comunque, per farvi un attimo capire la sua polemica, e vi volevo far vedere questo pezzo qui di... Yeah. guardate, senti tu, sei di servizio qui, preparate. Oh, ma guarda. Perché? Perché l'italiano in batteria e il romano in fureria. Oh, del certo! Per la cronaca che sto posto non lo scelgo. Io lo uso per dire 300 e 300 morire. Ah, vero, vero, sapere. Comunque, si potrebbe essere qualcuno, aspetto parlando, malgrado la palestra è contrario, che ha la salute minata, non se la sente mica. Allora, un rinvio, poi il debitante si è sentito, sarebbe anche un'opera di umanità. Ma che dovrei dire? E lo vanno avanti da un lato perché l'ha detto il giornale. Va bene, va bene, come non detto. E come la spesa? Sì. Che non si dica poi che tu sei malato in quel tipo. Hai detto che sei malato? Ma poi vedi che sei malato. Ma tu non sei, Leva, com'è che arrivi adesso? Pensai fino a qualche giorno fa io avevo in un collegio, hai capito? Sì, ma poi c'è stata l'amnistia, presso il governo, poi avevano le mani calate. 30 lire. 20. Ma come io faccio lo tratto, lui mi piangeggia. Ma io non faccio i miei soldi, perché me lo vedo, voi capite? Va bene, 30 lire, vai. Ehi, bambino, rispondi alla domanda. Te hai capito che io stavo al collegio delle Mussoline? Ma ora mi sono spiegato male. Prima dare, poi avere, chiaro? Prima dare, poi avere. Direi. Prima dare, poi avere. Io non te l'ho detto niente. No, il mio nominativo sarebbe Fusacca Giovanni, DNN, classe 88, provincia di Milano. Mettere in fila, mamma. Ecco, questo è un passo significativo, perché questo non è che non fu l'eccezione, questo fu quello che molti poveretti a quel tempo giovani dovettero praticamente subire, nel senso che non è che potessi, una persona potesse scegliere, appunto, doveva abile arruolato. E in questo caso che cosa ci fa vedere questo Monicelli? Che da nord a sud il sentimento era sì, bello, però la guerra sta durando troppo. Addirittura quella di cui parla Gassman fu un'amnistia reale, nel senso che il governo si trovò con pochi soldati, perché Cadorna aveva questa mania, no, di andare a conquistare zolle di terreno con un sacco di militari, con tre battaglie di Bisonzo, eccetera, eccetera. E quindi cosa fece? Continuò a chiamare addirittura i carcerati. Amnistia, però ti dà da ruolare. Molti ovviamente ci andarono, perché piuttosto che stare in prigione. E chiaramente quindi il sentimento italiano di quel periodo non era tanto distante da quello che ha, secondo me, ha fotografato Monicelli, nel senso che poi è stato il dopo, quindi la vittoria, che ci ha un attimino fatto ricordare che forse su certe cose bisognava andarci. In quel periodo lì, chiaramente, qualsiasi persona venisse mandata al fronte, insomma, il primo obiettivo era riportare a casa la pelle più che andare a conquistare mezzo metro tra le mitragliatrici, perché poi alla fine sì, sapete, la prima guerra mondiale è caratterizzata dalla guerra di, si chiama, di posizione, quindi posizionamento di schieramenti, quindi in trincea anche, soprattutto. E a parte la vita di trincea, che era una cosa sovrumana, a leggere certe cose si crede quasi che sia una cosa non possibile, in realtà invece purtroppo fu così. E quindi per tutto il film, questi sia Gassman che Sordi, adesso se voi l'avete visto non lo so, cercano di sfuggire alla morte. Addirittura vengono, siccome sono i più fannulloni nel loro reggimento, vengono, e questa è la scena che vi farò vedere adesso, vengono mandati, cioè questa della salve, cioè la scena finale, e vengono mandati a prendere dei pali e del filo spinato, e nel momento in cui prendono il palo e il filo spinato, gli austriaci bombardano la loro posizione. Quindi i loro compagni praticamente muoiono quasi tutti, se non tutti. Quando loro tornano nelle trincee, il comandante dà dei giorni di licenza, che loro si prendono, da vigliacchi, tra virgolette, perché loro avrebbero dovuto tornare sulla loro posizione e invece fanno finta di non averli, cioè non hanno i pali, e quindi dicono: beh, il sergente dice che non abbiamo i pali, abbiamo solo il vino spinato, aspettiamo. Quindi è la loro ultima truffa, però, perché poi succederà che li manderanno a fare una semplice ricognizione con un messaggio in territorio italiano. E loro, siccome sono furbi, consegnano il messaggio, al ritorno si fermano in un fienile e si addormentano. Purtroppo però il fienile dalla parte diventa poi austriaco e vengono catturati e la legge, però fanno un errore, si mettono dei cappotti austriaci e cercano di scappare con i cappotti austriaci, vengono beccati con questi cappotti e quindi il sergente austriaco ha tutto il diritto di fucilarli perché sono considerati sabotatori, traditori, eccetera. Se invece li avessero trovati come soldati italiani, quindi non accusati di spionaggio, eccetera, eccetera, avrebbero dovuto tenerli prigionieri e non fucilarli. Sappiamo anche Cesare Battisti non venne fucilato in quanto soldato italiano, ma perché traditore dell'Imperio Regio, quindi lui era scappato via dall'Austria e si era arruolato nell'esercito italiano. Quindi chiaramente, se tu risultavi o uno spione, quindi atti di spionaggio, dovevi essere fucilato. Però l'Austria ci conoscono anche il soldato italiano, che insomma motivazione ne ha, però non sempre fino al midollo, e quindi ai due propone: come mi capo, mi domando, che prego vuoi farmi sapere il luogo giù? Aspettate, che qua non serve. Ok, e qui appunto siamo dentro una... Come di caso, mi domando, che prego vuoi farmi sapere il luogo di posti di base? Dimmelo dunque. Questa scena è calda, per favore, per brigato. Piacco e dunque, quello che ho detto, che se voi non vi comunicate con il posto del ponte delle Marche, faccio voi immediatamente fucilare. Vostra parte di vista, vi contento di fare ciò. Piacente. E che ti ho domandato un po' per la mia ora, tu che sei per qua? E stai buono? Scusi, per me è un momento. Prego. Thank you. Ma che ce ne manda? Ma che si ammazza così la gente? E allora? E mo chi vuol dire la parte del potere, Banda? Ho saputo che non mi ho fatto niente. Che io mi devo raccomandare? E allora? Allora che? Ma... E poi che vedete? Ma... E poi che lei vedeva che io ce lo sapevo? Io non so niente, adesso. Io non so niente. Signor Capitano, io stavo a fare già la non so niente. A noi soldati non ci arrivano mai niente. Ma che c'è? Non è che torno, no? Non so niente, signor Capitano. Non so niente. Del Piave e si vedono i due corpi, cioè si vede l'esercito italiano che sfonda a Caporetto, sì, che sfonda a Vittorio Veneto e quindi, quindi tiene il Piave e gli unici due sopravvissuti della compagnia di Solo di Gassman e dicono chissà dove saranno finiti quei due fannulloni e poi la scena finale riprende i loro corpi sotto la, insomma, vicino alla cascina lì. E chiaramente questa scena cosa significa? Significa che alla fine comunque il soldato italiano, cioè Monicelli dice che comunque il soldato italiano non era un codardo, perché avrebbero potuto tranquillamente dire dove il nostro esercito era dislocato, lo sapevano, avevano gli ordini dietro, non lo hanno detto e si sono fatti ammazzare tutti e due, anche Sordi, che apparentemente sembrava quello meno, perché un po' più coraggioso era Gassman, però Sordi sembrava quello anche. Questa scena chiaramente anche questa diede fastidio a Gadda e io mi sono chiesto perché appunto lui non riuscivo a capire il motivo, dato che questa scena comunque rivaluta il nostro esercito, rivaluta comunque la nostra nazione eccetera eccetera, e ho capito perché alla fine appunto il fratello è morto in guerra, quindi lui è tornato come prigioniero, che nessuno in Italia si è mai sognato di dire che i prigionieri di guerra fossero codardi, anzi lui è stato catturato in azione di guerra per colpa degli alti comandi, quindi non aveva nessuna colpa, ha avuto solo una fortuna, la fortuna di non finire dalla parte del fronte dove le salve di cannone avevano distrutto, quindi è una questione di fortuna che hanno avuto tutti più o meno in guerra quelli che sono sopravvissuti. E però il fratello invece è morto in azione, quindi anche in quel caso lì c'è il richiamo alla madre, c'è il richiamo a tutta la sua storia. Infatti lui nell'intervista che darà nel 70-71 si fermerà su questo passaggio dicendo che non si può fare un film comico sulla, cioè lui dirà non si può fare un film comico sulla Grande Guerra. In realtà Monicelli gli risponderà ancora, perché poi Monicelli non era uno che stava zitto, dirà ma se secondo Gadda è un film comico, allora non era assolutamente, cioè aveva una vena comica, come La vita è bella, ha una vena comica, non è un film comico, il film comico è tutt'altro. Quindi questo era, ha voluto Monicelli con questo film far capire agli italiani del 59 che ormai la guerra non l'avevano, cioè l'avevano vissuta, la seconda guerra mondiale era stata molto diversa dalla prima, e infatti anche qualche associazione di combattenti si scagliò contro Monicelli dicendo che chi non avesse vissuto la trincea non potesse capire. Ripeto, appunto, fu il primo, poi ne seguirono altri film e ne seguirono anche altre opere. Questi film diedero anche là ad opere che oggi sono molto polemiche nei confronti degli alti comandi. perché la prima guerra mondiale fu veramente una strage totale, specialmente i reparti italiani spesso vennero mandati al macello totale, sull'Isonzo soprattutto, Cadorna, e proprio si fece riconoscere come totalmente rimasto nell'Ottocento, cioè lui aveva in testa una guerra dell'Ottocento. Il problema è che gli altri ci sparavano con la mitragliatrice. Addirittura ci sono un paio di episodi in cui gli austriaci dicono ai nostri soldati di tornare indietro, li avrebbero ammazzati tutti. E ovviamente dietro trovavi i carabinieri con i fucili, quindi avevi due alternative: o morivi per il piombo austriaco, o morivi per quello italiano. Quindi la situazione era questa. Garda tutto questo lo vive. E in parte perché anche il suo reparto, sono andato per guardare effettivamente dove fu dislocato, non vive la guerra neanche con Ungaretti, cioè lui fa un diario di prigionia, cioè fa una guerra al fronte per un lasso di tempo limitato, perché essendo un reparto logistico lui si occupava di andare avanti e indietro a portare viveri eccetera eccetera. Sul più bello che salta al fronte, ovviamente il fronte italiano fu tagliato dalle incursioni austriache e lui si ritrova dentro una sacca dove il nostro esercito deve arrendersi per forza e ha la fortuna di salvarsi, perché probabilmente se avesse indietreggiato sarebbero stati tutti uccisi. Però nemmeno la prima guerra mondiale fu per lui quindi quello scavalco di passioni e quel... Io ho trovato moltissimo nella Cognizione del dolore, che è un suo libro che quindi è stato finito stranamente, perché Gadda è famoso per non aver finito proprio le sue opere, per esempio quel pasticciaccio che è un romanzo che lui di fatto non ha finito, ambientato durante il fascismo, dove viene uccisa una persona, dove ci sono delle indagini, dove però il colpevole in pratica forse può essere questo piuttosto che quell'altro, ma alla fine viene fuori che il colpevole non si sa chi sia, e lui appunto spiega stilisticamente, cioè fa tutta un'analisi particolare di questo omicidio, e poi ci vuole in pratica far capire che è impossibile arrivare sempre a una soluzione lineare, perché appunto dice quel pasticciaccio, perché appunto la vita è un pasticcio, questa è la sua vita, lui non ha fatto una vita, cioè a posteriori lineare, perché ha visto tutti i fatti che hanno modificato la mentalità del nostro paese dal 15 fino al 70, e in pratica è entrato in un'Italia post risorgimentale ed è uscito in un'Italia moderna, perché comunque dal mio punto di vista adesso negli anni 70 il ragionamento italiano sì, è ovvio che si sia modificato, però non è come il 72 e il 1914. Quindi anche se ultimamente siamo un po' regrediti come ragionamenti, è singolare che a 100 anni dalla Grande Guerra queste iniziative partono un po' da questo, si analizzino, e ho visto in giro parecchie bellissime recensioni, però si analizzi sempre quella parte di guerra vera e propria, nel senso che la parte intellettuale, io questo è il mio primo, io proprio ho preso Gadda come primo spunto, perché lui è quello che secondo me appunto ha visto tutto. D'Annunzio è morto nel treno anni 30, quindi non ha visto l'Italia dopo. Lui mi interessava perché aveva visto proprio l'Italia dopo la seconda guerra mondiale, dopo la prima, i due dopoguerra diversi ma anche molto simili, eccetera eccetera. L'altro invece romanzo, La Cognizione del dolore, dove lui praticamente fa una critica postuma al fascismo, fa finta, praticamente lui cosa fa? Fa finta di ambienta tutto in un paese che non esiste dell'America Latina, dove succedono varie cose. Adesso la trama del romanzo secondo me è abbastanza relativa, nel senso che non è tanto la trama, è proprio lui prende la società fascista, la società italiana, e la trasporta qui e quindi la fa apparire quella parte di Novecento italiano come un periodo caotico. Infatti dirà sempre che Mussolini era bravo a mantenere un finto ordine, quindi insomma farà una critica abbastanza da una parte velata, perché ovviamente il fascismo per lui fu un passaggio, lui lo vede come un passaggio, e dall'altra invece ci fa capire però gli difetti della nostra nazione in quel periodo lì, cioè una nazione che entrò in questo tunnel in un modo e ne uscì in un altro modo. Però quello che secondo me deve colpire, e ho scelto Gadda per quello, è che fondamentalmente l'italiano dal 14 al 72 dentro di sé non ha fatto un grande viaggio, nel senso che comunque siamo rimasti ancorati a certe logiche. E quindi la logica del 14 in realtà non è scomparsa, comunque la retorica di quegli anni è rimasta, prima nel fascismo che l'aveva esaltata, è rimasta anche nel secondo dopoguerra che però l'ha esaltata dal punto di vista civile, cioè quindi sempre si cercava un primato italiano, non per niente Olivetti, c'era Gadda, vive anche quella generazione di persone, lui che è ingegnere, che è un tecnico, sa perfettamente una figura come quella di Olivetti che cosa significhi per la storia, proprio per la storia del nostro paese. E infatti non si confronterà neanche mai più di tanto con intellettuali letterati del suo tempo, se non da un punto di vista stilistico. Cioè lui sarà famosissimo per aver inventato un certo tipo di scrittura e sarà il mito degli scrittori di quegli anni. Quindi tutti gli scrittori che si formeranno in quegli anni lì, lo stesso Baricco, che anche se viene un po' dopo, però ha sempre Gadda in bocca e ha fatto delle bellissime uscite su Gadda, perché appunto ha preso spunto, perché la cognizione del dolore e quel pasticciaccio sono due pietre miliari della nostra letteratura e sono due romanzi che un lettore medio può definire noiosi, perché ovviamente sono delle vicende talmente, lì proprio non bisogna guardare, bisogna secondo me leggere una recensione, leggere pezzi di romanzo, poi se si ha voglia leggere tutto il romanzo. Se si legge tutto dall'inizio, sinceramente quello che vuol dire, cioè Gadda è penso uno dei pochi autori che va un po' preparato, perché è come andare a una, secondo me l'arte può essere capita da chiunque, però su quelle mostre molto tirate per i capelli moderne, no? L'arte moderna che è molto complessa, delle volte è solamente una simbologia, una stanza vuota. Ecco, sono quelle cose che vanno preparate in un certo modo, nel senso che comunque tu devi avere dei libri, non è che devi fare dei corsi, ma devi leggere prima dei libri, quindi sarebbe utile che prima uno, se non leggesse proprio il libro, ma capisse com'era la società italiana di quel tempo e il prodotto di quella società italiana che durò 70 anni, perché il fascismo fu solo un pezzo di quello che oggi è l'Italia, di quello che era l'Italia negli anni 70, che ha contribuito anche il fascismo su certe cose, perché appunto, ripeto, era una dittatura sociale, l'IRI e tantissime altre cose che hanno modernizzato il paese. Noi uscivamo dalla prima guerra mondiale come un paese rurale, come un paese che si è industrializzato per la guerra, come un paese, cioè Mussolini invece cerca di modernizzare, infatti anche lui, però lo farà anche lui a livello teatrale, cioè la trasvolata di Balbo, una grandissima propaganda, l'Italia all'aeronautica migliore del mondo, nel 34, poi nel 40, però gli Spitfire andavano più veloci dei nostri CR-42, e quindi la nostra marina, grande e potente, però non venne costruita nessuna porta aerei, se non a guerra inoltrata. Quindi tutto questo Gadda addirittura lo critica e dice perfettamente durante il fascismo che cosa. Infatti una frase sua molto significativa: se Mussolini avesse fatto un viaggio in America, noi in guerra non ci saremmo mai schierati con i tedeschi. Ed è una questione che poi Montanelli questa cosa la riprenderà. Questa è una frase significativa, perché se tu prendi una fotografia di Chicago, di New York, di Baltimora negli anni 30 e prendi una fotografia di Firenze, io parlo di Detroit, tu ti rendi conto di che cosa sono gli Stati Uniti e capisci subito che una potenza bellica di quel livello non puoi sconfiggerla con due paesi come Italia e Germania con risorse a zero praticamente, perché anche la Germania deve andare a conquistarsi i pozzi di petrolio in Ucraina e però andare contro la Russia eccetera eccetera, i pozzi di petrolio in Africa era un disastro, andarli a prendere ce l'avevano gli inglesi. Quindi Gadda è stato uno dei pochi che ha fatto noi quando parliamo di seconda e di prima guerra mondiale facciamo discorsi ideologici, in realtà lui da buon ingegnere ha fatto un discorso tecno-economico, cioè ad esempio io sfido a tantissimi professori di storia, vai a chiedere, prima della seconda guerra mondiale in Italia non avevamo zirconio, che è un materiale che invece per fare la guerra è utilissimo, sarebbe fare mine, sarebbe fare ganci metallici da attaccare sotto le mine, da mettere sotto le navi, eccetera, eccetera. Quindi noi avevamo dei reparti fatti in un modo, gestiti in un modo, e ci mancava tutto, ci mancavano altre cose. Persone come Gadda l'avevano capito, però non riuscirono per svariati motivi a fare un'opposizione interna. Non erano al livello di un Bottai, per esempio, che era un intellettuale fascista di primo ordine, che era il primo a criticare la politica fascista in armamenti. E Gadda lo fece, ma lo fece nei suoi diari, quindi non ci fu una opposizione al fascismo, come spesso lui ha ricordato in alcune interviste. Cioè, lo fece dopo, nel 46, nel 47, lo fece ormai da lavoratore della RAI. Qualcuno può dire anche un po' comodo farlo lì, però ripeto, non erano tempi in cui, cioè, da una parte capisco anche il personaggio, perché dopo la guerra c'è il contrario, cioè bastava solamente dire ma forse nel 32 quella scelta non fu poi così sbagliata e ti cacciavano via, cioè sapete noi che in Italia eravamo tutti fascisti fino al 43, poi di colpo perfino gli americani che arrivarono in Italia dissero ma trovarono in... Questa è una scena vera, c'è una fotografia di un sergente americano che trova i fasci vittori, no, che si mettevano i rappresentanti del partito all'occhiello della camicia, li trovarono tutti ammucchiati a Roma nelle strade. Disse, ma è possibile che 3 mesi fa erano tutti fascisti qui? Tutti? Cioè, Italia fascista. E nel 43, a ottobre, invece, eravamo tutti antifascisti. Questa cosa non ha mai convinto gli alleati, infatti noi non siamo riusciti a fare il giochino di arrivare alla combelligeranza piena e siamo andati a finire dalla parte di chi ha perso, fondamentalmente. Non ci hanno diviso in due perché abbiamo avuto, alla fine della guerra, a metà guerra, abbiamo avuto il Comitato di Liberazione Nazionale che è riuscito in qualche modo a sviare, ci siamo barricati dietro, ma noi avevamo una dittatura, però... La dittatura ce l'avevamo anche cercata, non c'era, cioè, voglio dire, Mussolini non aveva conquistato l'Italia, c'erano mille modi per poter riuscire a svincolarsi. In realtà la popolazione, che è quella massa silente che nel 14 era contro la guerra, no, era a favore, neanche. Stessa identica cosa nel 40, stessa identica cosa nel 70, dove si scannavano DC, PC, il movimento sociale era minimo. Dove si scannavano, ma fondamentalmente eravamo rimasti anti o pro, non eravamo andati via da quello. Gadda, infatti, in questo libro, La condizione del dolore, è quello che dice. Lui critica l'Italia fascista, ma di riflesso critica anche l'Italia dove sta lui, perché comunque lui ha fatto parte di quell'Italia. Se era fosse stato a un livello superiore, avrebbe contrastato Mussolini in un altro modo, oppure sarebbe espatriato Nenni e sempre contrastato Mussolini, cioè Nenni sarebbe diventato ministro se tu avessi abbracciato completamente il fascismo, era amico intimo di Mussolini, anzi fu lui proprio che ruppe i ponti, Mussolini lo mandò al confino ma non lo uccise mai, perché comunque, cioè, la figlia di Mussolini chiamava Nenni zio, per intenderci il discorso. Quindi voglio dire, non fu tanto tenero Nenni dopo però con Mussolini, perché dopo la seconda guerra mondiale, dopo Piazzale Loreto, un giornalista chiese a Nenni ma cosa pensa di quello che è successo a Piazzale Loreto. Lui non ha mai voluto commentare Piazzale Loreto, perché sotto sotto sapeva che Mussolini fino a quel livello con lui non c'era mai arrivato. I nostri esuli antifascisti erano anti... Ecco, Gadda per esempio di questo parla poco, ma i nostri esuli antifascisti a Parigi, tanti sono scappati all'Italia, tanti invece stazionavano già lì, nel senso che erano anche anti borghesi prima, erano anti. Noi siamo molto bravi ad andare da una parte o dall'altra, e purtroppo questa caratteristica che Mussolini ha cercato di smussare, perché ha detto no, siamo alleati alla Germania, andiamo fino in fondo con la Germania, ha torto, perché chiaramente era un disastro, fu un disastro, era appunto a dimostrare questo. Gadda in realtà critica, cioè si arrabbia perché un film del genere ti dice l'italiano aveva solo voglia di, non so, tornarsene a casa, e non era vero secondo lui, perché non si scherza, però dall'altra in realtà lui ha fatto la stessa cosa, anzi lui si è pure salvato, questi se non altro sono morti nel film. Quindi è una critica a se stesso e all'Italia, infatti la cognizione del dolore, lui parte ben da se stesso, c'è il rapporto con la madre, cioè infatti questo romanzo l'ha composto nel 38, la madre era già morta, probabilmente non ha avuto nemmeno il coraggio di scriverlo prima perché era ancora viva la mamma. Quindi è per questo che questo personaggio andrebbe sviscerato meglio, perché secondo me Gadda, una persona di un'intelligenza ovviamente sopra la media, però incarna esattamente quello che più o meno hanno fatto, più o meno dico, perché ripeto, lui era borghese, agiato, aveva studiato, bla, le famiglie italiane dal 14 fino al 70, cioè sono un attimino, a noi piacciono i balconi, all'estero a me è capitato di leggere, a noi piacciono molti balconi, nel senso ci piace a noi italiani, forse perché nell'antichità abbiamo già adatto molto alla Repubblica, ci piace molto andare sotto i balconi quando troviamo un personaggio forte. Questa è una proprio caratteristica, cosa che per esempio agli inglesi non piace, i proclami non piacciono tanto agli inglesi, ai francesi dipende. A noi piaceva molto il proclama del balcone, a noi è piaciuto per 20 anni quel proclama, però poi non è finita lì, perché poi i proclami sono continuati, non è che non proclamavano in maniera diversa, non dal balcone, ma in un altro modo. E Andreotti lo dissero i più grandi pensatori italiani, cioè furono rare le persone che si discostarono completamente dal nostro modus operandi. Questa non è che sia una critica totale, perché sono italiano anch'io, secondo me non è neanche trasformismo, delle volte può essere buonsenso. Il problema è che il nostro buonsenso, se nel 14 ci portò dalla parte dei vincitori, nel 40 ci portò dalla parte degli sconfitti, cose che tuttora paghiamo perché siamo nella NATO, eccetera, eccetera. Il problema nostro non è stata, secondo me, la popolazione, e qui sto per concludere, e adesso non vi faccio vedere Montanelli perché lo proporrò alla prossima conferenza, perché è più... E non è stata una popolazione che si è sempre adattata alla situazione anche con un certo stile, secondo me, perché comunque i soldati italiani hanno sempre fatto bella figura, poveretti, con quello che gli davano in mano nella prima e nella seconda guerra. L'italiano medio è sempre riuscito a venirne fuori, e ne verrà fuori anche adesso sicuramente. Il problema sono proprio i nostri pensatori, cioè un letterato come Gadda che polemizza con un regista per un film. Ecco, lì secondo me io sono rimasto proprio scioccato dalle sue parole, oppure che per invidia vada a fare delle polemiche con personaggi che comunque non possono più rispondergli, perché alla fine i letterati scrivono i pamphlet. Però delle volte lo fanno contro chi è già morto. Magari risponde un critico, oppure risponde, non so, potrei rispondere io se mi, non so, insomma, una persona offende Leopardi, a me piace molto, io inizio a rispondere, però non sono Leopardi, non ho la sua caratura, e quindi la mia è una risposta vaga, anche se sono un bravo pensatore, non lo so. Ad esempio, Coelho si è messo a fare discussioni con Joyce, ma Joyce lo avrebbe, penso gli avrebbe chiuso la bocca in un quarto d'ora, neanche, l'avrebbe smontato e rimontato. Ma lo puoi fare perché non ce l'hai davanti. Ecco, Gadda cosa ha fatto? Ha fatto questa serie di lavori con persone che comunque avevano, è vero, fatto, cioè D'Annunzio è criticabilissimo, però secondo me vedo una forma di coerenza nel personaggio, cioè ha fatto quello che ha voluto. Pascoli anche lo vedo abbastanza coerente, cioè lui non ha mai nascosto di essere infantile, nel senso che diceva che lui mancava quel pezzo di... Perché criticare l'unico suo aspetto debole? Quando noi di Gadda potremmo criticare mille cose, il rapporto, cioè Davide del Mammone ad esempio, che nessuno si è mai sognato di fare tra i suoi colleghi, o Davide del... non so. Invece, forse perché abbiamo capito il suo limite, però lui incarna, secondo me, proprio a livello di definizione, l'intellettuale medio italiano, e incarna anche quel trasformismo, perché 3 anni di partito fascista se li ha fatti anche lui, è rimasto in Italia tranquillamente, ha pontificato dopo, quindi secondo me lui proprio incarna l'intellettuale medio italiano, cioè quell'intellettuale che si schiera anche ferocemente contro questo e quell'altro dopo, che si schiera ferocemente contro questo e quell'altro a posteriori, ma forse c'è più coerenza, perché adesso si dice, adesso proprio chiudo in due minuti, molti giovani e giovanissimi sono attratti da un certo tipo di cultura che va dalla destra alla sinistra, adesso va più verso la destra perché quelli di destra sono riusciti a organizzarsi in un certo modo, perché quelli di destra usano gli slogan che sono stati inventati anni fa, dove i pensatori avevano un cervello, slogan veloci, slogan che arrivano subito al dunque, e soprattutto vedono una coerenza. Io ho parlato con ragazzi recentemente di gruppi di destra, ma tranquillamente, perché secondo me è meglio andare a parlare con queste persone, non semplicemente contrastarli dicendo c'è la legge che se fai così ti metto dentro, se fai costà, no. Secondo me quelle sono delle sciocchezze che noi, che andavano bene nel 45. Forse oggi dovremmo iniziare a parlare e capire perché questi dopo 50 anni ancora sono lì che fanno il saluto romano. Forse sarebbe più utile. E anche tanti miei colleghi insegnanti dovrebbero andare a pascolare, dico a pascolare proprio, in mezzo a questi ragazzi e andare a capire perché arrivano a mettersi la foto di Mussolini in camera. Uno di questi ragazzi, tra l'altro una persona molto intelligente e sveglia, mi ha detto, ma secondo me un Bottai era molto più coerente di un Garda. Perché non studi lì? Perché gli ho detto non studi, che ne so, ecco, ad esempio questo ragazzo di estrema destra apprezza Che Guevara, perché lo vede come un combattente coerente, di estrema destra. Quindi quello che voglio far capire è che qui la storia si sta rigirando su se stessa. Quindi su questo non vi metto il video di Montanelli che ci spiega come siamo noi italiani, lo tengo per la prossima conferenza che sarà proprio imperniata sul pensiero italiano dopo la prima guerra mondiale, sia letterario che sociale. Su questo vi ringrazio, se avete delle domande sono disponibile, poi non vediamo gli altri.